E da tanto che ti filo tu non vedi me. Come un'ombra io ti spio sempre dietro a te. Ma verrà il momento, ma verrà poi l'ora, che il mio cuore arriverà volando e ti dirà: io muoio per te, io muoio per te, io muoio per te, io muoio per te. Io vorrei essere l'aria che respiri tu.